Probabilmente non avrò più piedi. Non ho disdetto la lezione di tango argentino che ti piace tanto. Forse ho preso un po' troppo alla lettera quel tuo bisogno di una mano. Allora ho preso il vecchio macete, cucina che taglia bene ma fa molto male. One, two. Su cui piangere, e un polmone solo per fumare, due gomiti per bere, dicevi prestami orecchio, cosa? Prestami orecchio, cosa? Un indice per criticare meglio, l'intestino crasso, no, e infine ti do il pancreas che non so a che cosa serve, ma mi sembrava male lasciarlo lì dov'era, non devi dirmi grazie. Macchiato il tappeto, sono mortificato. Fossi vivo, te lo giuro, pulirei. Non ho più organico e la azienda non mi appaga. Mi sento un poco strano. Sarà il tuo odore o sarà l'amore? O sarà la pelle? Sarà quel che sarà. Sarà il tuo cane che mastica soddisfatto la mia scapola, clavicola e la mia virilità. La situazione è grave. Non posso correre in ospedale. Ho il cervello per camminare, nello stomaco per pensare. Ho spazi o vuole. Non mi resta proprio niente dentro. Solo un sentimento un po' bavoso. Sembro impazzito, ma in realtà sono solo innamorato di te. Vabbè, che poi ripensandoci bene, te l'ho regalato io. Mi dispiace, ho già deciso, mi taglio la testa e poi te la regalo, faccio quello che vuoi. Tanto non mi è mai servito, cazzo, prendila in salotto. Mio zio ne ha un paio a casa, da tuttora l'ambiente, ma rimangono pezzi di cervello sul tuo viso, sangue dappertutto. Dio mio, ti ho macchiato il tappeto.